Ragazzi, non ho mai avuto un'accoglienza del genere, ma mio cognato è proprio accattatevillo, è vero, è proprio così. Non lo so perché, secondo me, Luciana sceglie le notizie quando sa che c'è Saverio che conduce. Ehi, facciamo un altro applauso a questi fantastici ministri straordinari. Ti voglio bene. Grazie. Vengono da una chiesa stupenda. I pastori Serena e Toni della Parola della Grazia di Roma ci hanno molto benedetto. In realtà l'unzione che io e mio marito abbiamo l'abbiamo presa dal letto dei vostri pastori, perché noi abbiamo dormito nel loro letto. Non so quanti possono dirlo, ma noi abbiamo dormito nel loro, ci hanno ospitato e ci hanno dato il loro letto. Ce ne siamo accorti dopo, vero amore? Loro dormivano per terra e ci hanno dato il letto. È stata una cosa assurda. Grazie ragazzi, portate questa benedizione anche a loro. Che bello! Chiesa, siamo pronti? Svegli? Mi accendete? C'è qualcosa che non riesce... Antonio, mi snellisci? No. L'ero studiata. Antonio, mi fai... Oh, ok, grazie. Mi vedo meglio la chiesa. Sono più snella, vero? Antonio fa un ottimo lavoro, fa miracoli con le luci. Ora vedrete solo metà di me. Buongiorno, chiesa. Abbiamo avuto da 2 settimane la nostra fantastica conferenza Ecclesia. Ed è stato incredibile. E prima che te ne vai, Mauro, fermati, perché vogliamo onorarti. Noi abbiamo avuto tanti, tanti servi, tanti volontari, però non vi abbiamo molto parlato di Mauro. Mauro, come diceva Saverio, ha servito nella nostra conferenza, ma ha servito molti mesi prima, e anche la nostra prima conferenza, lui ci ha aiutato a realizzarla. Quindi possiamo fare un enorme applauso a Mauro Di Gioia, il nostro production manager, insieme a sua moglie e alla sua lunga discendenza. Grazie Mauro. Lui è la ciliegina sulla torta, è stata la ciliegina sulla torta, voi lo vedevate, sfrecciava da tutte le parti. La conferenza Ecclesia è stata straordinaria anche, come ci siamo detti, per l'enorme numero di persone che hanno servito. Oltre 160 volontari, tra cui molti di noi. Chi ha servito con la maglia volontaria in almeno un turno? Posso vedere la tua mano alzata? Fatevi un applauso, siete straordinari, bellissimi. Voglio onorare 2 volontari bellissimi che hanno servito e sono entrambi al corso di consolidamento. Voglio onorare Valerio e Carmine. Grazie per il vostro servizio. Che belli. Valerio non ha avuto i giorni a lavoro e non poteva venire alla conferenza se non poche ore giovedì, ma tutto mercoledì è stato con tutto il Team Power a montare, smontare, è stato fantastico. E voglio onorare Carmine, prima conferenza, e alla fine della conferenza, mentre la maggior parte di noi stava andando a casa, mi ferma. Sapete, no? Chi mi ha visto alla fine della conferenza aveva un po' gli occhi girati, no? Tutti, ok, andiamo i pacchi, vai veloce, dobbiamo lasciare. E Carmine mi ferma e fa, Sara, io dico, ma mo, cosa mi deve chiedere? Fa, Sara, come posso darti una mano? È un'attitudine bellissima, grazie Carmine. E non se n'è andato fino a quando non è finito tutto. Vogliamo fare un applauso a questo ragazzo? E questi sono i frutti del consolidamento. Che bello, che bello. La conferenza Ecclesia è passata da 2 settimane circa e abbiamo vissuto molti miracoli. Non so quanti ne hai sentiti, però abbiamo vissuto tanti miracoli, alcuni forse li sappiamo. Sono certa che molti, molti altri non li sapremo mai. Ma noi non facciamo le cose perché si devono vedere, ma noi le facciamo perché noi non le vediamo, noi lavoriamo in un mondo soprannaturale. Voglio raccontarvi però al volo un paio di testimonianze che ho ricevuto, una da parte di un pastore. Chi si ricorda che abbiamo fatto qui l'incontro casa di preghiera ogni lunedì, e ogni lunedì c'era il punto di preghiera per i pastori, vero? Abbiamo detto, Gesù ti prego guarisci il cuore dei pastori, Gesù consola, Gesù dai visione, ti prego equipaggia, Signore compi un miracolo. Bene, una coppia pastorale in particolar modo è venuta ed è stata consolata. La Chiesa sta vivendo un momento drammatico, ma ci hanno ringraziato in continuazione dicendoci grazie, perché è stata proprio olio da parte di Dio sul cuore di questi pastori. Sono tornati a casa con una visione rinfrescata. E questo non lo facciamo noi, viene da Gesù, vero? Un'altra testimonianza è di una coppia che è venuta ferita profondamente dalla loro Chiesa. e il Signore durante la casa di preghiera ogni settimana ci ricordava che la conferenza avrebbe guarito, che la conferenza avrebbe risanato le relazioni. E questa coppia è tornata nella propria chiesa con una guarigione, cioè non volevano mai più servire la chiesa italiana, e durante la conferenza si sono inginocchiati e hanno detto: Signore, siamo di nuovo a tua disposizione. Che bello questo! Non merita Dio un enorme applauso per i suoi miracoli, per le cose incredibili che lui ha fatto? Amen. Amen. Che bello. Stiamo vivendo un tempo in cui la Chiesa è sottoposta a diversi stress, vero? Chi di voi ha seguito la vicenda del video e della testimonianza di questo ragazzo che si è convertito e ha ricevuto guarigione e ha cambiato vita dall'omosessualità, e questa testimonianza è schizzata sul web, abbiamo ricevuto un sacco di critiche come Chiesa Evangelica Italiana, eccetera, ma sapete una cosa? Il nome del nostro potente Dio viene proclamato. Al di là di tutto, al di là di come i giornali, le TV disegnano la Chiesa italiana, il nome di Cristo Gesù viene proclamato. Milioni di persone hanno ascoltato la testimonianza di un Gesù che fa le cose nuove. E questo è glorioso. La Chiesa è sempre sottoposta ed è stata sempre sottoposta ad uno stress, ed è di questo che voglio parlarci questa mattina. Perché per quanto possano dire giornali, media, social, noi dobbiamo ricordarci quello che Gesù ha detto della Chiesa. Per la prima volta che Gesù ha parlato della parola chiesa, ecclesia, in Matteo 16, Gesù ha detto queste parole: io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Amen! Non c'è niente che possa alzarsi al di sopra di questa affermazione. Voglio ripeterla. Io, dice Gesù, costruirò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la possono vincere. E qui ci vuole un amen, non da culto della mattina, qua ci vuole un amen da persone onorate di far parte di una chiesa che Cristo sta edificando. Quindi, per darci l'occasione di riscaldarci, lo ripeto, e tu stai per preparare un amen glorioso. Amen? Gesù ha detto: io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Questo l'hanno sentito fuori, questo l'ha sentito la fiera di Modugno. Questo è glorioso. Gesù ha detto queste parole e, Chiesa, ricordati questo. Da oltre 2000 anni, Gesù sta mantenendo fede a questa promessa. Da oltre 2000 anni, Gesù ce lo ricorda. E lo sta facendo. Da 2000 anni Gesù tiene fede a quello che ha detto oggi, e lo farà fino a quando come chiesa non lo rincontreremo, come sposa non saremo ricongiunti al nostro sposo, quando Gesù tornerà e la chiesa potrà essere unita al suo sposo. Fino ad allora Gesù continuerà a dire: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno trattenere, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la possono vincere, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno trattenere. Amen. Questo è il grido di Cristo Gesù, non solo per ognuno di noi. Noi siamo qui seduti in un locale che si chiama Chiesa, ma la Chiesa non è un locale. Per cui tu fai parte della Chiesa di Cristo, tu fai parte dell'edificio che Gesù si sta preparando per incontrare, ma non solo qui, ma nella storia e in tutto il resto del mondo, perseguitato o no, tu sei una parte di questa Chiesa che Gesù ha scelto di edificare da 2000 anni a questa parte. Amen? Questo è glorioso. Quindi non sentirti la parte piccola della città piccola, della chiesa piccola, no, la parte forse zoppicante, forse distrutta, forse indebolita, forse tremante. Tu fai parte della chiesa gloriosa di Cristo Gesù, che lui per primo si alza ed edifica, che lui per primo proclama in vittoria, che lui per primo è pronto a combattere perché la chiesa sua sia vittoriosa sempre. E sai perché Gesù ha detto le porte dell'Hades non la potranno vincere? Perché è lui che ha vinto l'Hades per sempre. È nella vittoria che lui ci dà, quella che noi viviamo di riflesso, che noi vinciamo. Amen? Quindi non ti sentire sfigato, non ti sentire piccolo, Non ti sentire inutile, non ti sentire una parte che nessuno guarda o insignificante, perché la tua vita ha uno scopo fondamentale all'interno di questo quadro più grande che è la Chiesa di Cristo, che da 2000 anni viene edificata da Cristo Gesù, Lui il vivente. Amen. Ho finito di predicare. Non ridete, è vero. Tutto quello che dirò oltre questo è solo per specificare, ma voglio che torniamo a casa oggi con questa specifica condizione, rivelazione. Cristo Gesù da 2000 anni a questa parte lavora, si è dato, continua a edificare te, a costruire la sua Chiesa di cui io e tu facciamo parte. E sai, la prima volta che ha parlato di questo è stato un momento straordinario. Vogliamo leggerlo insieme, Matteo 16, dal verso 13. Leggiamo insieme. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia il figlio dell'uomo? Un'altra traduzione dice: chi dice la gente che io sia, virgola, il figlio dell'uomo? O altri dicono: chi dice che la gente che io sia il figlio dell'uomo, o chi dice che la gente... Vabbè, avete capito. Essi risposero, essi, i suoi discepoli, no? Dissero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? Che belle queste domande di Gesù. Gli altri che cosa dicono? E tu cosa dici? E voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, coraggioso, si alza e dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Punto. Non esiste una definizione migliore, più completa e più reale. Per la prima volta un uomo ha riconosciuto il figlio di Dio vivente pubblicamente. E Gesù, replicando, disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Che verso glorioso! A un certo punto Gesù è nel pieno del suo ministero con i suoi discepoli, sta viaggiando attraverso vari paesi e arriva in un paese e si ferma nei dintorni di Cesarea, quindi si mette un po' in periferia, non è andato nella piazza perché vuole incontrare in intimità i suoi, gli vuole parlare. Sai quei momenti catartici in cui Dio ti porta da una parte e dice: parliamo un attimo, stiamo per conto nostro, fermiamoci un attimo. A me e mio marito capita che parcheggiamo sul lungomare e rimaniamo in macchina prima di entrare a casa e parliamo. È il momento, parliamo un attimo, che sta succedendo? E Gesù fa questo con noi. Gesù forse puntualmente ha bisogno di stare con noi per parlarci in intimità. Noi abbiamo bisogno che Gesù ci parli in maniera intima. E ci sono tanti momenti, tante situazioni, tante condizioni che Gesù sfrutta per portarci in periferia e parlarci di qualcosa di intimo. Forse lo viviamo giornalmente, che tu ti isoli, prendi la tua Bibbia, scegli il tuo posto con un buon tè o con un buon caffè e giornalmente cerchi questa intimità con Dio. Che bello! Uno dei miei posti intimi con Gesù è la mia macchina, mentre guido è il mio tempo, è con Mirko e Giorgia, Fabio e Melissa, tutti nella mia macchina dietro e io con Gesù davanti, sono tutti con me. E quelli sono i miei momenti intimi con Dio. E poi e sono quei momenti che Dio usa, no, con la pioggia, con una pietra, con la macchina di avanti, per parlare al mio cuore. E poi ora c'è anche la possibilità di ascoltare la Bibbia, audio, e questo è fantastico. Ci sono questi momenti in cui Dio vuole parlare al tuo cuore. E Dio lo fa con i discepoli, li prende in disparte e vuole chiarire una questione importante. Vuole capire bene dove sono arrivati i discepoli. A che punto sono arrivati i discepoli? I discepoli lo conoscono? Si fidano dei pareri degli altri? O hanno capito chi è Gesù? E Gesù fa questa domanda ai discepoli: chi dice che la gente, chi dice che io sia? Avete capito? La gente cosa dice di me? E si presenta lì, dice, il figlio dell'uomo. Gesù stesso si è definito molto spesso durante il suo ministero come il figlio dell'uomo. Ebbene, lui è il figlio dell'uomo per ricordare la sua natura umile nel venire sulla terra come uomo. E lì sta dicendo: cosa dice la gente? E i pareri dei discepoli sono stati all'inizio discordanti, perché qualcuno ha detto Elia, qualcuno ha detto Giovanni Battista, altri un Geremia o altri profeti, e non hanno sbagliato, perché stanno facendo riferimento a Gesù come di una persona, no? Elia, i profeti, Geremia, una super persona, una persona che ha fatto la differenza, una persona straordinaria, che ha compiuto delle opere straordinarie. Perché era quello il modo che in particolar modo il popolo ebraico poteva riconoscere una persona figlia di uomini straordinaria. Il massimo dell'onore che poteva essere dato è il profeta Elia, il migliore dei migliori. Questo era il massimo della definizione che il popolo ebraico aveva nel riconoscere una persona di alto valore. Ma Gesù non è solo il figlio dell'uomo. E poi infatti ha voluto chiedere ai suoi: e voi, chi dite che io sia? E io me lo immagino questo momento, no? Vi ricordate com'era a scuola quando il professore entrava in classe, apriva il registro e rimaneva in silenzio, e ad un certo punto diceva: c'è qualche volontario tra di voi? E non so se capitava anche a voi, io avevo una classe tutta femminile, tutte in quel momento le mani erano: posso andare in bagno? Cadeva la penna, tipico, per abbassarti e toglierti, diciamo, dallo sguardo. No, capitava solo a me, no, capitava a tutti. È lì che provi a diventare trasparenti, a mimetizzarti con la sedia, è lì che cominciano le preghiere: Signore, fammi uno, ma non con te, con la sedia, fa che non mi veda, fa che non mi veda. E così è stato quel momento. E sai, cominciava quel brusio, quel parlare: dai vai tu, tu hai studiato di più, no, io sono andato in una festa, no, vai tu. Io me l'immagino così questo momento tra i discepoli, che tutti hanno risposto: ma qualcuno ha detto Elia, qualcuno ha detto Geremia, e poi Gesù ha detto: e voi chi dite che io sia? Dillo tu, no, io non lo so. E a un certo punto arriva il secchione della classe che dice: ma dai, la provo, Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù le ha risposto: bravo, promosso, 10+. Pietro ha definito Gesù come Gesù doveva essere definito. Per la prima volta un uomo umile, pescatore, con un caratteraccio, ha avuto una rivelazione incredibile di chi era veramente Gesù. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Pietro ha definito Gesù come colui che, di cui era stato profetizzato nei secoli, ma anche il figlio del Dio vivente. A confronto di tutti gli altri dei, Pietro ha innalzato Gesù sopra ogni altra cosa. Sopra ogni altra persona, sopra ogni altra brava persona straordinaria, Pietro ha riconosciuto Gesù come l'unico, come il figlio del Dio vivente. Non un figlio dell'uomo, ma il figlio del Dio vivente. Bellissimo. E sai Gesù che gli ha detto? Beato, promosso, sii felice, bravo. Ha dato una bella pacca sulla spalla. Bravo Pietro, qualche cosa, l'hai capita? Che bello, no? Promosso. Ma gli ricorda anche questo: bravo Pietro, felice, beato, né carne e né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Incredibile questo passaggio, perché? Perché Gesù vede Pietro, e mentre vede Pietro ascolta anche la rivelazione straordinaria che Pietro ha avuto, che è una rivelazione. Per questo ricorda, né carne e né sangue. Cosa vuol dire né carne né sangue? Vuol dire questo, che da quando siamo nati in Italia, soprattutto in Italia, in tutto il mondo occidentale, è assolutamente certo che noi abbiamo sentito parlare di Gesù. Bene, male, abbiamo capito che è il figlio di Dio, abbiamo saputo che è colui che sta sulla croce, abbiamo forse anche saputo che è risorto. Da quando siamo nati, la nostra cultura ci ha insegnato chi è Gesù. E poi magari siamo andati al catechismo, e poi magari abbiamo fatto delle scelte, ma ad un certo punto arriva il momento in cui qualcosa deve essere rivelata. Cristo Gesù lo possiamo conoscere in carne e sangue, ma tutta questa conoscenza, tutta questa esperienza non potrebbe essere mai equiparata a quella che è la rivelazione di Cristo nella nostra vita. E tutti quanti noi, e se sei qui, forse ti stai approcciando per la prima volta a Gesù, ti voglio dire questo: forse hai sentito parlare di Lui, ma tutti noi abbiamo bisogno che Cristo Gesù venga rivelato nella nostra vita, che qualcosa di straordinario sia vissuto, che qualcosa di buono, di nuovo sia rivelato nel nostro cuore. Come? Non attraverso carne e sangue, ma attraverso Dio stesso che rivela. È bellissima la parola rivela, perché vuol dire ispirare, proprio respirare dentro, cioè qualcosa che tu lo senti nello stomaco. Non rimane qui. Oh sì, Gesù è il figlio di Dio che è morto, dopo 3 giorni risorto. No, quando vuol dire che è rivelato, vuol dire che tu sai che Gesù è vissuto, è venuto sulla terra come uomo per prendere i miei peccati, le tue malattie, le mie maledizioni, ed è andato sulla croce e ha vinto su quella croce, è risorto il 3° giorno per me, per te. E questo ha un significato che cambia la mia storia. Questo vuol dire che Cristo è stato rivelato. E questo viene da dove? Da Dio. Viene dall'alto. Non te lo può spiegare nessuno. Quando mia madre per prima ha conosciuto Gesù nella mia famiglia, e noi venivamo dalla cultura cattolica, lei ci diceva: ma Gesù mi ama. Sì, vabbè, ma lo so, ma lui è andato sulla croce. No, no, Gesù ha fatto qualcosa per me. Lei continuava a dirci questo. Gesù mi ha cambiata, e io e mio padre non lo capivamo. Non lo capivamo, ma solo quando Gesù si è rivelato a me, allora ho potuto dire: oh, è vero. Me lo potevano spiegare anche bene, ma è vero, quando succede per te. E Pietro ha avuto quella rivelazione incredibile, e su quella rivelazione Gesù ha messo il cartello di cantiere edilizio. Su quella rivelazione, vediamo il cartello, vediamo la foto. Su questa rivelazione Gesù ha detto: me. Allora, cominciamo là. Pinuccio, dove c'è Pinuccio? Sì, dove sta Pinuccio? Pinuccio è giusto, abbastanza fedele? Quando cominciano i lavori per costruire qualcosa, si deve apporre questo cartello. Che cosa fa? Questo cartello testa che da quel momento in poi qualcosa sta iniziando, giusto Pinuccio? E vengono messi tutti i nomi dei vari responsabili, e la cosa interessante è questa: viene scritto inizio lavori e fine lavori, che non è mai attendibile, giusto? Più o meno si sa quando si inizia e non si sa mai quando finisce. E più o meno è così anche con la Chiesa, perché è iniziato molto tempo fa e non si sa quando andrà a finire. Certo è che ha una fine, perché i lavori nella Chiesa finiranno quando Gesù tornerà, e lì avremo veramente finito. La cosa bella di questo cartello è che, oltre che il posto, al posto di comune, di provincia, di, potresti cominciare a mettere il tuo nome e cognome. Perché questo è quello che Gesù ha detto: Simone di Giona, nome e cognome. Su questa rivelazione io comincerò ad edificare la mia chiesa. Sara Marinelli, puoi mettere il tuo nome e cognome. Perché quando Cristo si rivela come colui che edifica la sua chiesa, come ho già detto, si rivela anche come colui che edifica me e te. E allora ci sono i lavori di, concessione di, sai qual è la cosa interessante? Proprietario, progettista, committente, direttore dei lavori, direzione del cantiere, assistente tecnico, responsabile della sicurezza, coordinatore della progettazione, coordinatore dei lavori, calcolatore, se la giocano Gesù, il Padre e lo Spirito Santo. Quindi puoi metterli come vuoi, ok? Però quello che devi sapere è che il proprietario di questa chiesa è Cristo Gesù. Che colui che comincia i lavori e li finisce è Cristo Gesù, attraverso lo Spirito Santo in noi. Sai che cosa? Devi sapere questo. Il terreno sei tu. E chi fa i lavori è Lui. Amen? Pietro, anzi, Gesù ribadisce, Simone di Giona, né carne né sangue ti hanno rivelato questo. Perché Gesù si rivolge a Pietro come Simone di Giona? Sta ricordando il suo vero nome e anche il suo cognome, Bar Giona. In realtà è proprio questa la traduzione, significa il cognome. Nella popolazione ebraica la tradizione era che tu ti identificavi con il nome di appartenenza di tuo padre. No, a chi appartieni, a chi sei figlio. Simone era Simone di Giona, suo padre era Giona, lo troviamo in tutta la Bibbia. Per questo Dio, Gesù quando si rivela dice figlio dell'uomo, altre volte è scritto figlio di Davide, figlio dell'Altissimo, figlio del Dio vivente. È fondamentale rimarcare a chi sei figlio, a chi appartieni, come nella cultura nostra, no? Quando ti vedono per strada dici ma quello, a chi appartiene? Io sono Sara, figlia di Feluccio, quindi della macelleria, più o meno così è la mia identificazione qui a Modugno. Non lo so, Sara Marinelli è della Pieno Vangelo, tutti quanti. E così Gesù sta sottolineando chi è quest'uomo che ha avuto questa rivelazione talmente straordinaria. Simone, figlio di Giona. Un uomo semplice, che non ha niente di sacro nella sua discendenza. Una persona semplice, Simone, figlio di Giona. Tu hai ricevuto questa rivelazione dall'alto, ma sei Simone, figlio di Giona. Tranquillo, non devi essere superdotato per ricevere le rivelazioni da parte di Cristo Gesù. Non hai bisogno di essere super straordinario. Gesù si rivela ai Simone di Giona. Gesù si vuole rivelare a te. Senza distinzione di quale pedigree tu abbia, di quale sia la tua discendenza, di quale sia la tua storia. Gesù si vuole rivelare a te, punto. E Lui ti fa diventare Pietro. Lui ti cambia il nome. Lui ti fa diventare Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. E su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Voglio farvi leggere queste parole, perché possano entrare nel nostro cuore. Io, e lo sta dicendo Gesù, io, il figlio dell'Iddio vivente, io, il vero, io, l'alfa e l'omega, io, il potente, io, il guerriero, io, l'agnello, io, questo è l'io su cui la Chiesa si fonda. Edificherò, costruirò. Lui continua a farlo, Lui continua a farlo. Ha messo il cartello di cantiere e Lui continua a farlo. È Lui stesso che continua a farlo e non smette. Sai perché? Perché lo ha promesso. La mia. Oh, gloriosa questa affermazione. Non è la tua chiesa, non è la chiesa di qualcuno, è la sua, è la chiesa di Cristo. E non è, sai, di qualcuno, non è di proprietà di uomini, è di proprietà di Cristo. Sapete, in questa settimana ho fatto diversi appuntamenti e tutti stanno avendo la possibilità di raccontare le situazioni particolari che si vivono, non nella nostra chiesa, ma in altre chiese. E sai, è così assurdo quello che sta accadendo per mani di uomini. Ma ogni volta che qualcuno ci parla di problemi nella Chiesa, problemi con la Chiesa, problemi tra persone della Chiesa, dobbiamo ricordarci questa affermazione, la mia. E se io penso che sia la mia, allora, mamma mia, devo fare di tutto, non so cosa fare, non ce la faccio. Ma quando mi ricordo che è la sua, allora mi devo calmare. Perché è la sua, è di sua proprietà. Tu sei di sua proprietà. La Chiesa è di sua proprietà, non la mia, non la tua, non di uomini, ma la sua. Amen? l'ultima parola, chiesa, ecclesia. Ecclesia, per la prima volta nella storia compare questo nome, ecclesia, la giusta parola. E cosa significa? L'assemblea dei chiamati, insieme. Perché? Ascoltami bene, Gesù non ha pensato che tu sei la chiesa, basta. Gesù ha pensato che tu sei la chiesa e che tu sei la chiesa insieme a lui, e che tu sei la chiesa insieme a lui, e che tu sei la chiesa insieme a lui, e che io sono la chiesa insieme a te, perché è da Gesù che proviene quest'idea assurda che la chiesa siamo noi insieme. Gesù, perché hai detto così? Volevo essere io chiesa con te, basta. E invece Gesù ha detto insieme, insieme. Che onore, che lavoro, che bisogno ci sarebbe della rivelazione di Cristo se dovessimo farlo solamente io e lui e basta. E Gesù non ha chiamato un ministerio, un ministro, uno. Gesù ha chiamato la Chiesa, la sua Chiesa, a portare in questo mondo il suo Vangelo. Oh mamma mia, ma che brutta questa verità. Ti piacerebbe? Oh, voglio fare un po' la ruffiana. Vi vedo solamente io. A chi piacerebbe fare chiesa con Gesù e basta? Facciamo un'altra domanda. A chi piacerebbe fare chiesa con chi ti piace, te li scegli tu? Noi abbiamo i gruppi, no? So che la chiesa vive il trauma dei cambiamenti dei gruppi. È proprio una, come dire, una maledizione che arriva ad un certo punto, quando Antonio e Simona, Stefano, Angela, per noi il pastore Mirko, ci dicono dobbiamo cambiare i gruppi, e vedi che chi cambia faccia. E in quel momento io vorrei che la chiesa la potessi scegliere io, che il gruppo lo potessi scegliere io. Io facevo parte di un gruppo straordinario, bellissimo, non lo volevo cambiare per niente. Abbiamo fatto lettere di denuncia, abbiamo raccolto firme al pastore per dire ti prego non ci cambiare gruppo. E poi è arrivato il momento in cui il pastore Mirko è arrivato e ha detto siccome la chiesa cambia i gruppi anche noi dobbiamo cambiare i gruppi. E lì dici Gesù, ecclesia, ecclesia, ecclesia. E ora ho un gruppo, sai una cosa? Ho un gruppo ancora più bello. Non è stato facile, non è proprio quello che io avrei scelto forse, ma è un gruppo straordinario. Ci voglio ricordare una cosa. Io costruirò la mia chiesa. Gesù ha usato proprio un paragone edilizio. Perché? Perché è stupendo vedere come Gesù ci parla con le cose che noi possiamo riconoscere e possiamo capirne il significato. Le costruzioni sono fatte con mattoni su mattoni su mattoni. Quando si inizia a costruire, non puoi proprio immaginare come vada, cioè com'è la fine di quel progetto. Quello che tu vedi è un mattone messo lì. E poi c'è un altro mattone, e poi c'è un altro mattone. Bene, Gesù ha scelto me e te per essere quei mattoni. Allora quando ci approcciamo alla rivelazione di Cristo Gesù in noi, come mattoni veniamo tagliati, no? Come fa bene un muratore, e ci fa prendere la forma e la grandezza giusta per il suo progetto che ha solo lui in mente. E vieni tagliato, non so, forse ti tolgono un angolo e vedi che lo Spirito Santo lavora sul tuo carattere, poi ti fa cambiare direzione, quindi il tuo cambio di prospettiva, e poi cambi scopo perché pensavi di non avere una vita che avesse significato, invece il Signore te la dà, e diventi un mattoncino bellissimo. E nell'essere il mattoncino bellissimo è così noioso essere messo accanto ad un altro mattone che è già lì prima di te. Oh, pensavo che Gesù tu vorresti costruire solo con me la tua gloriosa chiesa, ma perché? E poi comincia ad essere scomodo, ma vedi che Gesù ti mette accanto ad un mattone che è preesistente. E allora dici wow, allora ora veramente Gesù ha finito. La cosa peggiore è che Gesù sta preparando un altro mattone che viene messo accanto a te, togliendoti lo spazio che ti sei meritato. Perché lo vuoi, perché sei largo e devi essere orgoglioso e dire Gesù io merito tutto questo spazio. Gesù ti mette un mattone proprio accanto che ti toglie lo spazio che volevi. E lì è che non mi piace, non mi piace, non mi piace, e non lo puoi scegliere. Mamma mia, non lo puoi scegliere, ma posso cambiare sempre chiesa? Non lo puoi scegliere. E mi fermo qui. E non mi fate andare oltre su questo, perché poi mi infiammo. Non lo puoi scegliere. Non possiamo scegliere con chi essere chiesa, perché Gesù ci mette uno accanto all'altro. Però voglio ricordarci tre cose nell'essere parte di una chiesa che Gesù crea, che Gesù edifica. Uno, che tu sei solo un mattone, ok? Cioè, io sono solo un mattone, punto. Simone di Giona, che bella rivelazione che hai avuto, ma sei sempre il Simone di Giona, cioè non ti dare teste arie. Io rimango un mattone ed è bellissimo, ma rimango un mattone. La seconda rivelazione è che wow, tu sei un mattone, io sono un mattone, incredibile, con le mie difficoltà, con le mie debolezze, con le mie insicurezze, con i miei peccati, con la mia storia, eppure Gesù ha scelto di edificare la sua chiesa con me. È grazie a questo. Io sono solo un mattone, ma sono un mattone, mamma mia, che bello. E la terza rivelazione è questa, che se non fossi accanto, sotto, sopra a tutti quei mattoni che sono vicino a me, io non vedrei quel muro, e quel muro non ci sarebbe. E ti devi allontanare un attimo per vedere che grandioso edificio sta costruendo Gesù tramite quei mattoni. Amen. Tu sei un mattone. Wow, tu sei un mattone. E wow, ci sono tanti mattoni intorno a te che stanno costruendo una chiesa di Dio gloriosa. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Stamattina, se vuoi fare un non complimento a qualcuno, digli sei un mattone. Però dipende da come glielo dici. Te lo puoi dire con sei un mattone, oppure gli puoi dire sei un mattone. Vai da qualcuno, digli sei un mattone, dipende da come glielo dici, ma scegli come dirglielo. Però hai persone accanto, dietro. Che bello. Siamo dei mattoni, sì? Siamo dei mattoni per la sua gloria, siamo dei mattoni per costruire la chiesa che Cristo Gesù da 2000 anni a questa parte sta costruendo, Lui. Voglio ricordarci come abbiamo iniziato, io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno trattenere. Che cosa vuol dire chiesa? Che c'è un'autorità nella chiesa che viene da Cristo Gesù. C'è un'autorità che Gesù ha rilasciato sulla Chiesa per compiere delle cose nei cieli e sulla terra e dalla terra nei cieli. Ed è di questa autorità che noi dobbiamo rivestirci perché questo mondo cambi. Allora quello che leghiamo sulla terra, Gesù ha detto che sarà legato nei cieli e viceversa. Chiesa insieme, noi abbiamo autorità in Cristo Gesù per vedere il suo regno andare avanti, per vedere il suo regno venire, per vedere come abbiamo pregato, come preghiamo sempre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, sulla terra. Questa è l'autorità, la potenza che Gesù ha lasciato alla Chiesa per sconfiggere le tenebre, per aiutare le persone ad avere rivelazione di Cristo, per pregare per le nazioni, per arrivare dove la luce di Gesù non è ancora arrivata. Questa è l'autorità che Gesù ha lasciato alla Chiesa, a noi insieme, per la sua gloria. Ce lo ripeto, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Amen. Metti un braccio sulla persona.